La storia ci ha insegnato, ma non si impara mai, che l'uomo fa casini e la donna solo guai. Partiamo dal principio, Adamo ed Eva un unico divieto e Dio fu il primo ad essere disubbidito. Benvenuti nell'Eden delle facili illusioni, la vita è un'allusione. Sveglia, i sogni fanno parte del copione. Ciao, io sono Ness, discendente di Adamo. Per te diede una costola, è per questo che ti amo. Io non commetterò adulterio. A 40 anni è arrivata l'ora di fare sul serio. Poi incrocio minigon ed atto scene in luogo pubblico. Intravedo un perizoma che mi alza il tasso alcolico. Tacchi a spillo, a cui servirebbe il porto d'armi. E per quel sorriso, pronta ad incastrarmi. Mi stai parlando, ma fisso il piercing che hai sul labbro. Nei tuoi occhi vedo l'occasione che fa l'uomo ladro. Ho una fervida immaginazione. Segue le linee di un bel corpo, con molta attenzione. Attendo osservatore, di ogni minimo particolare. Dopo le prime curve, comincio già a sbandare. Sono un peccatore, solo per debolezza. Coerente miei principi, resto fedele alla bellezza. Tu sei la decisione che offusco ogni criterio. Per le mie intenzioni il tuo corpo è deleterio. Hai un profumo che accende il desiderio. Con una come te, come faccio a non commettere adulterio? Scagli la prima pietra, chi dice sul serio? Ma come faccio a non commettere adulterio? Eva mangia la mela mentre Adamo gliela sbuccia. L'uomo al guinzaglio delle donne è un cane a cuccia. Ho incrociato chi scagliava pietre in faccia. Gente più marcia delle mele a terra tra l'erbaccia. Amici, persone innamorate, tutta gentaccia. Paragonato a loro un santo se fossi un magnaccia. C'è gente strana, lei è fidanzata. Fa scambio di coppie e dice di essere innamorata. Lui si fa la cognata, che da parte sua racconta di essere impegnata. E tu punti il dito mentre fotti tua madre. Parli d'adulterio raccogliendo pietre per le strade. Le tieni in tasca, pronte per scagliarle. Ma le tue mani insanguinate, tocca pulirle. Le tue impronte sono dappertutto. Anche tu indiziato, colpevole di aver peccato. Hai gran classe, stronza prima scelta. Ma molla quella pietra, almeno per questa volta. Scagli la prima pietra, chi dice sul serio? Ma come faccio a non permettere adulterio? Eva mangia la mela mentre Adamo gliela sbuccia. L'uomo al guinzaglio delle donne è un cane a cuccia. E quando sbagli non torni indietro con il contro Z. Tu non sbagli mai, scaglia la prima pietra, le tieni in tasca. Io sono il bersaglio, ma il tuo peccato che ti tiene al guinzaglio. Ieri mi chiedevi cosa volevo a 40 anni. Ora so che voglio diventare un quarantenne. Non ho più 20 anni, ma casco continuamente nella ragnatela di una ventenne. Sono un adultero e tu sei una donna. Sfoderi le ali ed io mi prendo la condanna. Solo perché hai quel culo, ti credi figa. Lo usa come banca dati per le impronte la scientifica. Hai il tocco di Eva, qualsiasi cosa prendi in mano fai peccato. Fino a ieri eri l'allieva. Ora sei serpente, sei diventata brava. Mi tendi con la mela, vedi la bava. Un morso, mastico scorie, gli scarti delle storie. Se rinasco voglio rinascere una delle più grandi troie. Così potrò peccare come Maddalena. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Scagli la prima pietra, chi dice sul serio? Ma come faccio a non commettere adulterio? Eva mangia la mela mentre Adamo gliela sbuccia. L'uomo al guinzaglio delle donne è un cane a cuccia. E quando sbagli non torni indietro con il contro Z. Tu non sbagli mai, scaglia la prima pietra, le tieni in tasca. Io sono il bersaglio, ma il tuo peccato che ti tiene al guinzaglio.